Capitolo 30. Più conoscevo gli abitanti di Moor House e più mi affezionavo a loro. In pochi giorni mi ristabilii tanto da poter restare alzata fino a sera e fare anche qualche passo all'aperto. Ormai potevo unirmi a Diane e a Mary in tutte le loro occupazioni, conversare con loro quanto lo desideravano e aiutarle non appena me lo permettevano. Provavo un piacere benefico in quella compagnia, un piacere che nasceva da una perfetta affinità di gusti, di sentimenti e di principi, e che gustavo ora per la prima volta. Mi piacevano le stesse letture che piacevano a loro. Ciò che le divertiva, divertiva a me pure. Ciò che esse approvavano, lo approvavo anch'io. Esse amavano la loro casa solitaria, e anch'io cominciavo a subire il fascino discreto e duraturo di quella piccola dimora, così antica e grigia, con il tetto basso, le finestre ingraticciate, i muri cadenti, il viale di abeti centenari resi sghembi dal vento impetuoso che soffiava dalle montagne, con quel giardino fitto di cespugli di bosco e di agrifoglio, dove soltanto i fiori più resistenti riuscivano a fiorire. Esse amavano la brughiera rossastra che stringeva da presso la loro abitazione. La valle alla quale conduceva il sentiero sassoso, che partiva in discesa dal cancello, snodandosi prima attraverso campi di felce e poi attraverso i più piccoli aridi pascoli che mai abbiano costeggiato una landa o nutrito un gregge di grigie pecore di palude con i loro agnellini dal muso muschioso, amavano quel paesaggio, ripeto, di un amore entusiasta e devoto. Io capivo quel loro sentimento e lo dividevo con altrettanta forza e sincerità. Capivo il fascino del luogo, sentivo che quella solitudine era sacra e i miei occhi si compiacevano a seguire i contorni dei colli e delle valli. Ammiravano l'intensità e la varietà dei colori, di cui il muschio, le eriche, i fiori dei prati, le felci brillanti e le rocce granitiche rivestivano le cime e i versanti. Tutte queste cose erano per me, esattamente come per loro, una fonte di piaceri dolci e puri. Il vento impetuoso, la brezza leggera, i giorni sereni e i giorni burrascosi, le ore dell'alba e quelle del tramonto, il chiaro di luna e le notti nuvolose avevano per me, in quella regione, lo stesso fascino che per loro. E il mio e il loro spirito erano blanditi da uno stesso incanto. In casa l'intesa era ugualmente perfetta. Tutte e due erano più colte di me e avevano letto molto, ma io le seguivo con ardore sul sentiero della cultura che entrambe avevano percorso prima di me. Divoravo i libri che mi prestavano ed era un gran piacere per me discutere con loro alla sera su quanto avevo letto durante il giorno. I nostri pensieri armonizzavano, le nostre opinioni si intendevano, in breve l'accordo era perfetto. Nel nostro terzetto vi era un superiore e un capo, Diana. Fisicamente nessun paragone era possibile con me. Era bella, vigorosa, piena di vita, così sicura ed animata che eccitava sempre la mia ammirazione, anche se mi lasciava un po' perplessa, come di fronte a qualcosa che fosse al di là della mia comprensione. All'inizio della serata riuscivo a parlare un poco anch'io, ma appena svanito il primo eccitamento, la mia vivacità si spegneva e preferivo sedermi su uno sgabello ai piedi di Diana, posarle la testa sulle ginocchia ed ascoltare ora lei, ora Mary, mentre approfondivano l'argomento che io avevo appena accennato. Diana mi offerse di insegnarmi il tedesco. Mi piaceva studiare con lei, capivo che mi faceva volentieri da maestra, né a me piaceva se diceva meno la parte di scolara. Le nostre nature erano fatte per intendersi, così ne nacque un affetto reciproco e profondamente radicato. Quando scopersero che sapevo disegnare, misero subito a mia disposizione pennelli e colori. La mia abilità in questo campo era superiore alla loro e ne furono sorprese ed ammirate. Mary mi si sedeva accanto e stava a guardarmi per ore, poi volle prendere lezione da me ed era un'alunna docile, intelligente e assidua. Così, piacevolmente occupata, i giorni ci sembravano ore e le settimane giorni. L'intimità, sorta tanto spontaneamente e rapidamente tra me e le due sorelle, non si era estesa al signor St. John. Una ragione della distanza che ancora esisteva tra noi stava nel fatto che egli rimaneva poco in casa, gran parte del suo tempo essendo dedicato alle visite, ai malati e ai poveri della parrocchia, non molto popolosa ma estesa. Nessuna intemperie poteva trattenerlo dal compiere quelle caritatevoli escursioni. Con la pioggia o il bel tempo, dopo aver dedicato qualche ora del mattino agli studi, prendeva il cappello e, seguito da Carlo, il vecchio cane da caccia di suo padre, usciva per la sua missione di dovere o d'amore, poiché non saprei dire come egli la considerasse. Talvolta, quando il tempo era molto cattivo, le sorelle protestavano, ma egli allora rispondeva con un curioso sorriso più solenne che lieto. «Se un po' di vento o uno spruzzo di pioggia dovessero distogliermi da questi facili doveri, come riuscirei a prepararmi per l'avvenire che mi sono proposto?» Diana e Mary generalmente rispondevano a quella domanda con un sospiro e poi per qualche minuto rimanevano immerse in una poco allegra meditazione. Ma oltre a queste frequenti assenze, un'altra barriera ostacolava l'amicizia tra noi, e cioè la sua indole che mi sembrava riservata, chiusa e persino cupa. Zelante nell'adempimento dei suoi doveri evangelici, irreprensibile nella condotta e nelle abitudini, non pareva tuttavia godere di quella serenità di spirito, di quell'intima contentezza che dovrebbero essere la ricompensa di ogni sincero cristiano, di ogni filantropo attivo. Spesso di sera, quando sedeva alla finestra davanti al tavolo coperto di carte, smetteva di leggere o di scrivere, posava il mento sulla mano e si abbandonava a non so quali pensieri, ma che fosse turbato ed eccitabile lo si vedeva dal frequente lampeggiamento e dalla mutevole dilatazione delle pupille. Credo inoltre che la natura non costituisse per lui quel tesoro di delizie che era per le sue sorelle. Una volta, e solo una volta, in mia presenza, manifestò apertamente di sentire il fascino selvaggio delle colline circostanti ed espresse l'affetto che nutriva per la casetta dal tetto nero e dai muri ammuffiti in cui era nato. Ma vi era più tristezza che gioia nel suo accento e mai lo udii decantare il riposante silenzio delle lande, né enumerarne le mille pacifiche attrattive. Poco comunicativo com'era, mi ci volle un po' di tempo prima di potermi fare un'idea di quel che fossero le doti della sua mente. Cominciai a rendermene conto la prima volta che lo udii predicare nella chiesa di Morton. Vorrei poter descrivere quel sermone, ma non ne sono capace. Non saprei nemmeno rendere fedelmente l'effetto che produsse su di me. Cominciò in tono calmo, e del resto la voce si mantenne calma sino alla fine. Uno zelo, seriamente sentito ma represso, palpitò ben presto nell'accento nitido del pastore, animando nella parola nervosa. Era una forza condensata, dominata, il cuore era eccitato, la mente meravigliata dalla potenza dell'oratore. Ma né l'uno né l'altra ne erano blanditi né inteneriti, perché vi era in quell'eloquenza una strana amarezza, un'assenza totale di dolcezza consolatrice. Vi ricorrevano di frequente cupe allusioni alle dottrine calviniste sull'elevazione, la predestinazione, la perdizione, e ognuna di queste allusioni suonava come una sentenza del destino. Quando ebbe terminato, invece di sentirmi meglio, più calma, più illuminata, provai un'indicibile tristezza, perché mi pareva, e non so se anche gli altri ne avessero avuto la stessa impressione, che quell'eloquenza sgorgasse da una fonte avvelenata da amare delusioni, dove si agitassero torbidi impulsi, desideri insoddisfatti, inquiete aspirazioni. Ero sicura che St. John Rivers, nonostante la vita pura e lo zelo coscienzioso, non aveva ancora trovato quella pace divina che sorpassa ogni comprensione umana. Non l'aveva trovata più di me, che di nascosto mi tormentavo nel rimpianto del mio idolo infranto e del mio perduto paradiso, un rimpianto del quale da un po' ho evitato di parlare, ma che mi possedeva e mi tiranneggiava di continuo. Intanto, un mese era trascorso. Diana e Mary erano in procinto di lasciare Moor House per ritornare ad una vita e in un ambiente tutt'affatto diversi e riprendere il loro posto di istitutrici in una grande ed elegante città nell'Inghilterra del Sud. Esse erano collocate presso due diverse famiglie, i cui membri, ricchi ed orgogliosi, le consideravano soltanto come umili dipendenti e, ignorandone o non curandosi della loro innata superiorità, ne apprezzavano unicamente le doti pratiche, così come apprezzavano l'abilità del loro cuoco e il buon gusto della loro cameriera. Il signor St. John non mi aveva parlato ancora del posto che aveva promesso di procurarmi, ma ora urgeva che io trovassi una qualsiasi occupazione. Una mattina in cui ero rimasta sola con lui in salotto, per pochi minuti, mi arrischiai ad accostarmi al vano della finestra, dove il suo tavolo, la sua sedia e il suo scrittoio formavano una specie di studiolo. E stavo per parlargli, pur non sapendo bene quali parole scegliere per formulare la mia domanda, perché è sempre difficile rompere il riserbo glaciale di nature come la sua. Ma egli mi tolse d'impaccio, rivolgendomi per primo la parola. Alzò gli occhi su di me mentre mi avvicinavo e disse: «Vuol farmi una domanda?» «Sì, desidererei sapere se hai inteso di qualche posto dove potrei offrire i miei servigi. Avevo pensato a qualche cosa per lei 3 settimane fa, ma poiché mi sembrava che qui si trovasse bene e si rendesse anche utile, dato che le mie sorelle le si sono evidentemente affezionate e la sua compagnia rappresenta per loro un insolito piacere, credetti inopportuno interrompere la vostra reciproca contentezza finché la loro partenza da Marsh End non lo avesse reso necessario. Partiranno fra 3 giorni, non è vero? Sì, e dopo la loro partenza io tornerò al presbiterio di Morton. Anna verrà con me e la vecchia casa rimarrà chiusa. Tacqui per un momento, aspettandomi che riprendesse l'argomento intavolato prima, ma sembrava che i suoi pensieri seguissero ora un altro corso. Il suo sguardo rivelava che era lontano da me e dal mio problema. Fui costretta così a richiamarlo al tema che necessariamente mi stava tanto a cuore e mi rendeva inquieta. «Qual è l'occupazione che ha in vista per me, signor Rivers? Spero che questo ritardo non abbia compromesso la possibilità di ottenerla». «Oh no, si tratta di un lavoro che dipende unicamente da me, sempre che lei voglia accettarlo». Tacque di nuovo, come riluttante a continuare. Cominciai a spazientirmi. Un gesto irrequieto, uno sguardo ansioso e perentorio che gli rivolsi gli fecero capire il mio stato d'animo, non meno chiaramente che se avessi parlato o con minor disagio da parte mia. «Non c'è bisogno d'aver fretta», mi disse. «Lasci che le dica francamente che non ho nulla di vantaggioso e di attraente da proporle». Prima di spiegarmi devo pregarla di ricordare che, come già le ho detto, il mio aiuto sarebbe stato un po' come quello che un cieco può dare ad uno zoppo. Sono povero, perché tutto quel che mi resta, quando avrò pagato i debiti di mio padre, è questa baracca cadente, quella fila di abeti intisichiti e questo pezzetto di terra di brughiera con i cespi di bosso e di agrifoglio. Sono oscuro, quello dei Rivers è un nome antico, ma dei 3 soli discendenti del casato, 2 si guadagnano il pane in casa d'altri e il terzo si considera estraniato dal suo paese natale, non soltanto per la vita ma anche per la morte. Sì, e ritenendosi onorato di questa sorte, aspira soltanto al giorno in cui gli verrà deposta sulle spalle la croce che lo libererà da tutti i legami carnali, al giorno in cui il capo di quella chiesa militante della quale egli è umilissimo membro gli dirà «Alzati e seguimi». St. John disse queste parole come pronunziasse i suoi sermoni, con voce pacata e profonda, senza che un po' di colore gli salisse al viso, ma con un corrusco splendore nello sguardo. Egli continuò, «E poiché io stesso sono povero e oscuro, non posso offrirle altro che il lavoro del povero e dell'oscuro. Forse le sembrerà persino degradante, perché mi accorgo che lei ha avuto abitudini che il mondo chiama raffinate, che i suoi gusti tendono verso l'ideale e che ha vissuto tra gente bene educata. Ma è mia opinione che nessun lavoro sia degradante quando può migliorarci e credo che più arido e disprezzato è il suolo che il cristiano è chiamato a coltivare, più misera è la ricompensa della sua fatica e più grande è l'onore. In tali circostanze il suo destino è quello del pioniere e i primi pionieri del Vangelo furono gli apostoli, il loro capitano fu Gesù, il Redentore stesso. Bene, dissi quando tacque, continui. Mi guardò prima di continuare e mi parve che leggesse sul mio viso come in un libro aperto. Le conclusioni tratte da quell'esame le espresse in parte nelle frasi che seguirono. «Credo che accetterà il posto che le offro», disse, «e anche che lo terrà, ma per un poco, non per sempre. Neppure io potrò per sempre accontentarmi dei doveri modesti e limitati di un oscuro ministro di campagna, perché la mia indole è una lega avversa al riposo, non meno della sua, sebbene d'altra specie». «Si spieghi?» insistetti quando si interruppe di nuovo. «Subito, e vedrà com'è misera, meschina, deprimente la mia proposta. Io non rimarrò a Morton per molto tempo. Ora che mio padre è morto e che sono padrone di me stesso, lascerò questo posto probabilmente tra un anno, ma fin tanto che son qui farò tutto quanto sta in me per migliorarlo. Morton, quando ne diventai il pastore 2 anni fa, non aveva scuola. I figli della povera gente non potevano sperare in alcun progresso. Io ne fondai una per i maschi». E ora intendo aprirne un'altra per le ragazze. A questo scopo ho preso in affitto un fabbricato con annessa una casina di 2 stanze per la maestra. Questa avrà un salario di 30 sterline all'anno. La casa è già ammobiliata, semplicemente, ma con tutto il necessario, grazie alla generosità di una giovane dama, la signorina Oliver, figlia unica dell'unico uomo ricco della mia parrocchia. Il signor Oliver, proprietario di una fabbrica d'aghi e di una fonderia nella vallata. La stessa signorina provvede a sue spese all'educazione e al vestiario di un'orfana della fabbrica, a condizione che la ragazza, quando si aprirà la scuola, aiuti la maestra nelle pulizie e in quegli altri lavori domestici che l'insegnante stessa non avrà tempo di sbrigare da sé. Vuole essere lei questa maestra? Mi fece la domanda frettolosamente, come aspettandosi che io rifiutassi offesa o perlomeno sdegnata la sua offerta. Non conoscendo tutti i miei pensieri e sentimenti, anche se alcuni ne indovinava. Non poteva sapere con quale occhio avrei giudicato quel posto. Era umile, infatti, ma mi garantiva protezione ed io avevo bisogno di un asilo sicuro. Era anche faticoso, ma rispetto al posto di istitutrice in una casa ricca, indipendente. E il mio cuore avrebbe sofferto se avessi dovuto servire in casa di estranei. Non era un lavoro ignobile né spiritualmente degradante, così presi subito la mia risoluzione. La ringrazio dell'offerta, signor Rivers, e l'accetto con tutto il cuore. «Ma mi ha capito bene?» disse egli. «Si tratta di una scuola di paese. Le sue allieve saranno povere ragazze figlie di contadini tutt'al più affittavoli. Non dovrà insegnar loro altro che a fare la calza, a cucire, a leggere, a scrivere e far di conto. Che cosa ne farà delle sue cognizioni, della sua intelligenza, dei suoi sentimenti e dei suoi gusti? Li chiuderò in me per farne uso quando ve ne sarà bisogno. Non si guasteranno». «Allora si rende ben conto di che cosa si accinge a fare?» «Sì». Lo vidi sorridere e non di un sorriso amaro o triste, ma soddisfatto e riconoscente. «Quando comincerà a esercitare le sue funzioni?» «Andrò a vedere la casa domani e se lei è d'accordo aprirò la scuola la settimana prossima». «Benissimo, così sarà fatto». Si alzò e passeggiò per la stanza, poi fermandosi mi guardò e scrollò il capo. «Che cosa disapprova, signor Rivers?» domandai. «Lei non rimarrà molto tempo a Morton». «No». «Perché? Che cosa l'induce a crederlo?» «Glielo leggo negli occhi. Rivelano un'indole che non può accontentarsi di un tenore di vita così modesto». «Non sono ambiziosa». Sussultò alla parola ambiziosa e ripeté: «No, che cosa la fa pensare all'ambizione? Chi è ambizioso? Io so di esserlo, ma come lo ha indovinato?» «Parlavo di me stessa». «Ebbene, se lei non è ambiziosa è...» si interruppe. «Che cosa?» «Stavo per dire appassionata, ma forse avrebbe interpretato male la parola e se ne sarebbe dispiaciuta. Voglio dire che gli affetti e le simpatie umane esercitano un grande potere su di lei». «Sono certo che non sarà contenta a lungo di passare le sue ore di riposo in solitudine e dedicare le sue ore di lavoro a un compito monotono e senza nulla di stimolante, non più di quanto sia contento io», aggiunse con enfasi, «di vivere qui sepolto tra i paduli, chiuso tra questi monti. La natura che Dio mi ha dato me lo impedisce. Qui le facoltà concessemi dal cielo sono rese inutili, paralizzate. Lei intende ora quanto io sia in contraddizione con me stesso? Io che predico a tutti di essere paghi di una umile sorte, che esalto persino il lavoro di coloro che tagliano la legna e portano l'acqua nel servizio del Signore, io, suo ministro, mi dibatto nell'irrequietezza. Eppure bisogna pur che trovi il modo di conciliare le tendenze con i principi». Così lasciò la stanza. In quella breve ora avevo appreso di più sul suo conto che non in tutto il mese precedente, tuttavia non lo capivo ancora. Diana e Mary Rivers si facevano sempre più tristi e taciturne a misura che si avvicinava il giorno di lasciare la casa ed il fratello. Entrambe si sforzavano di apparire come al solito, ma l'amarezza contro la quale lottavano non era tale da potersi vincere o celare completamente. Diana asseriva che quella separazione sarebbe stata ben diversa dalle precedenti, perché probabilmente questa volta si staccavano dal fratello per anni e forse per sempre. «Egli sacrificherà tutto al progetto concepito da tempo», diceva, «anche gli affetti naturali e i sentimenti più forti. St. John sembra tranquillo, Jane, ma nasconde in cuore una febbre ardente. Si può crederlo mite, invece in certe cose è inesorabile, come la morte. E il peggio di tutto si è che la mia coscienza difficilmente mi permetterebbe di dissuaderlo dai suoi propositi e non posso biasimarlo. È giusto, nobile, cristiano, ma mi spezza il cuore». Le lacrime le inumidirono i begli occhi. Mary chinò più basso il capo sul lavoro. «Adesso non abbiamo più padre, tra poco non avremo più nemmeno una casa né il fratello», mormorò. In quel momento sopravvenne un piccolo incidente che sembrava decretato dal destino per avvalorare il vecchio adagio che dice: «Le disgrazie non vengono mai sole». E per aggiungere al loro dolore l'amarezza di un'inaspettata delusione. St. John passò davanti alla finestra leggendo una lettera ed entrò dicendo: «Lo zio John è morto». Le due sorelle parvero colpite, ma non sorprese né afflitte. Evidentemente la notizia era ai loro occhi più importante che dolorosa. «Morto?» ripeté Diana. «Sì». Ella fissò il fratello con uno sguardo indagatore. «Ebbene?» domandò a bassa voce. «Ebbene nulla», replicò egli serbando un'impassibilità da statua. «Leggi?» E gettò la lettera in grembo. Ella la scorse e la passò a Mary. Mary la lesse in silenzio e la restituì al fratello. Poi tutte e tre si guardarono e tutti e tre sorrisero in un sorriso pensoso e rassegnato. Amen, disse Diana parlando per la prima, abbiamo di che vivere ugualmente. Comunque la nostra situazione non è peggiore di prima, osservò Mary. Soltanto ci riporta davanti agli occhi l'immagine di ciò che avrebbe potuto essere, disse St. John, e questa immagine contrasta troppo con ciò che è. Piegò la lettera, la chiuse nel suo scrittoio e uscì di nuovo. Per un poco nessuno parlò. Infine Diana disse rivolgendosi a me, «Jane, lei si meraviglierà di noi e dei nostri misteri e ci crederà di cuore duro, vedendoci così poco afflitte per la morte di un parente prossimo, quale uno zio. Ma non lo avevamo mai veduto né conosciuto. Era il fratello di mia madre. Nostro padre aveva avuto a che dire con lui molto tempo fa. Corsero tra loro aspri rimproveri e recriminazioni. Si separarono in collera e non si riconciliarono mai». Era stato per suo consiglio che mio padre aveva rischiato tutto quanto possedeva in una speculazione che lo rovinò. In seguito mio zio si impegnò in iniziative più fortunate e sembra che abbia realizzato una fortuna di 20.000 sterline. Non si era mai ammogliato e non aveva altri parenti all'infuori di noi e di un'altra persona legata a lui da vincoli di parentela non più stretti dei nostri. Mio padre aveva sempre accarezzato la speranza che egli si ravvedesse e lasciasse a noi tutte le sue sostanze. Questa lettera ci informa che egli ha legato tutto a quell'altra persona, meno 30 guinee da dividersi tra St. John, Diana e Mary Rivers per l'acquisto di 3 anelli da lutto. Aveva diritto, naturalmente, di disporre della sua fortuna come meglio gli piaceva. Tuttavia, la notizia pervenuta ci ha gettato momentaneamente un'ombra sull'animo nostro. Mary ed io ci saremmo considerate ricche con 1 migliaio di sterline per una e St. John sarebbe stato felice con una somma simile per il bene che gli avrebbe concesso di fare. Dopo che Diana mi ebbe data questa spiegazione, l'argomento fu lasciato cadere e nessuno dei 3 fratelli Rivers ne parlò più. Il giorno seguente lasciai Marsh End per Morton e la mattina dopo Diana e Mary partirono per la lontana città di... In capo a una settimana, il signor Rivers e Anna fecero ritorno al presbiterio, così la vecchia casa rimase abbandonata. Capitolo 31. La mia casa, quando finalmente ebbi una casa... Era un edificio in pietra e legno, al pian terreno. Vi era una piccola stanza con le pareti bianche e il pavimento di terra battuta. L'arredamento consisteva in 4 sedie di legno dipinto, un orologio, un mobile a mensole sul quale vi erano 2 o 3 vassoi, alcuni piatti, e un servizio da tè in porcellana. Sopra vi era una camera delle stesse dimensioni con un letto d'abete e un piccolo cassettone, fin troppo grande per contenere il mio modesto guardaroba, che tuttavia... Le mie gentili e generose amiche avevano pensato a rifornire delle cose indispensabili. È sera. Avevo mandato a casa la piccola orfana che mi aiutava nelle faccende dopo averle regalato un'arancia e me ne stavo seduta sola accanto al focolare. Quella mattina si era aperta la scuola. Avevo 20 scolare, ma soltanto 3 di esse sapevano leggere. Nessuna sapeva scrivere o fare i conti. Qualcuna faceva la calza e poche erano capaci di cucire. Parlavano con marcato accento dialettale e non mi era facile capire quello che dicevano e a mia volta farmi capire. Alcune erano male educate, rozze, intrattabili quanto ignoranti, ma le altre erano invece docili e mostravano un desiderio di apprendere e una disposizione allo studio che erano per me ragione di conforto. Non devo dimenticare che quelle piccole contadine malvestite sono di carne e di sangue come le discendenti delle più nobili famiglie e che i germi della perfezione originaria, della finezza d'ingegno e della bontà d'animo esistono in loro come nelle altre. Il mio dovere consisterà nello sviluppare questi germi, e in quest'opera certamente mi sarà dato di trovare un po' di felicità. Non mi aspetto certo molte gioie dalla vita che si apre davanti a me, ma se riuscirò a imporre una regola alla mia mente e ad esercitare nel giusto senso la mia volontà, potrò trovare forza sufficiente per percorrere la mia strada. Sono stata serena, allegra e calma durante le ore trascorse nella povera scuola. Per non ingannare me stessa devo rispondere no. Mi sono sentita disperata, umiliata, come se accettando quel posto fossi scesa in basso nella scala sociale. Ero vilmente disgustata della povertà, dell'ignoranza e della rozzezza di tutti quanti mi circondavano. Ma se non devo sprezzare troppo me stessa per questi sentimenti, devo però sforzarmi di superarli. So di avere torto e questo è già molto. Domani mi riprometto di compiere altri sforzi e in poche settimane riuscirò forse ad ottenere una piena vittoria su me stessa. Tra qualche mese può darsi che la gioia di osservare un progresso nelle mie allieve tramuti in soddisfazione il mio attuale disgusto. Per il momento non mi resta che chiedermi cos'era meglio: cedere alla tentazione, lasciarmi trascinare dalle passioni, sfuggire alla lotta, lasciarmi prendere in una rete di seta, Addormentarmi tra i fiori e ridestarmi nei tepori del sud tra i piaceri di una residenza di lusso, vivere in Francia come amante del signor Rochester, inebriata del suo amore, perché egli mi avrebbe amata, oh sì, e nessuno mi amerà mai più di lui, non conoscerò mai più i dolci omaggi resi alla bellezza, alla gioventù, alla grazia, perché nessuno mi vedrà mai come lui, vestita di quelle attrattive. Egli era innamorato e orgoglioso di me, era come nessun uomo forse mai più accanto sarà a me. Ma che cosa sto fantasticando? Perché lascio vagare la mente? Perché mi abbandono al sentimento? Che cosa era meglio, mi domando, vivere schiava in un paradiso d'amore, nella febbre di un'ora di ingannevole gioia subito soffocata dall'amarezza del rimorso e della vergogna, o essere maestra in una scuola di campagna, libera e onorata tra i monti di un paesino nel cuore dell'Inghilterra? Sì. Ora so di aver agito bene quando ho deciso di rimanere fedele ai principi e alla legge, respingendo i consigli di un'esaltazione momentanea. Il Dio mi ha diretto nella scelta. Ringrazio la sua provvidenza per avermi guidato. Giunta a questo punto delle mie meditazioni, mi alzai, mi avvicinai alla porta e guardai fuori. Nella luce del tramonto estivo mirai i campi che si estendevano davanti alla mia casetta, distante al pari dalla scuola, circa mezzo miglio dal villaggio. Gli uccelli cantavano la loro ultima canzone. L'aria era dolce, profumata alla rugiada. Mentre guardavo quel paesaggio mi sentivo felice e rimasi sorpresa di sentirmi il volto bagnato di lacrime. Perché? Per il destino che mi aveva strappato al mio padrone, perché egli non mi avrebbe vista mai più, per il disperato dolore che doveva avergli causato la mia fuga e che forse lo avrebbe portato lontano dalla retta via, troppo lontano per poter sperare che un giorno vi ritornasse. A quel pensiero distolsi lo sguardo dal bel cielo e dalla solitaria vallata di Morton. Dico solitaria perché il tratto che vedevo era privo di case, ad eccezione della chiesa e del presbiterio, seminascosto tra gli alberi, e di Vale Hall, la villa dove abitava il ricco signor Oliver con la figlia. Nascosi il viso tra le mani e appoggiai il capo allo stipite di pietra della porta. Ma presto un leggero rumore al cancello che separava il mio giardinetto dai prati mi fece alzare il capo. Un cane, il vecchio Carlo del signor Rivers, spingeva il cancello col muso. St. John lo seguiva con le braccia incrociate, fissandomi con uno sguardo serio e quasi infastidito. Lo pregai di entrare. No, non posso fermarmi. Venivo soltanto a portarle un pacchetto che le mie sorelle hanno preparato per lei. Credo che contenga una scatola di colori, pennelli e carta. Mi avvicinai per prendere quel dono gradito. Quando gli fui vicina, mi parve che mi osservasse severamente, forse aveva veduto sul mio viso le tracce delle lacrime. Il primo giorno di lavoro le è forse sembrato più duro di quanto si aspettava? Mi chiese. Oh no, al contrario, penso che col tempo mi troverò bene con le mie allieve. Ma forse è la casa che non le piace, o l'arredamento? Certo, è molto semplice, ma la casa è linda e tranquilla, lo interruppi. I mobili sono puliti e più che sufficienti. Tutto quanto mi circonda non è fatto per attristarmi, ma per provocare in me un sentimento di riconoscenza. Non tengo tanto alle cose materiali da rimpiangere un tappeto, un divano o un vassoio d'argento. 5 settimane fa non avevo nulla, ero un'infelice, una vagabonda che tutti respingevano. Ora ho una casa, un'occupazione, degli amici, la cui generosità mi commuove. Non posso veramente lamentarmi di nulla. Si sentirà forse sola e malinconica. Questa casa è isolata e vuota. Per ora ho avuto appena il tempo di rallegrarmi della pace che mi offre e non ho sentito il peso della solitudine. Bene, spero che lei sia sincera nell'esprimere la sua soddisfazione. In ogni modo, il buon senso le insegnerà che è troppo presto per abbandonarsi agli stessi simori della moglie di Lot. Non so quale sia stata la sua vita prima di venire qui, ma in ogni modo la esorto a resistere con fermezza alla tentazione di ritornare sul passato. Segua con coraggio la sua strada, almeno per qualche mese. È appunto quello che voglio fare. St. John continuò. È duro opporsi alla tendenza della propria natura, ma è possibile, parlo per esperienza. Il Dio ci ha dato, entro certi limiti, la possibilità di decidere del nostro destino. Quando la nostra energia domanda un appoggio che non può avere, quando la nostra volontà aspira a una meta che non può conseguire, non dobbiamo lasciarci morire di fame o di dolore, bensì cercare un altro nutrimento per lo spirito, così forte come quello proibito che si voleva gustare, e forse più puro. Dobbiamo scavare col piede avventuroso una via non meno diritta né meno larga di quella che ci è stata sbarrata dalla fortuna, anche se più aspra. Un anno fa ero anch'io molto infelice perché temevo di avere sbagliato nel dedicarmi al sacerdozio. I doveri del mio stato mi pesavano. Avrei voluto nel mondo una carriera più attiva, ad esempio la carriera letteraria, e mi sentivo portato verso una vita d'artista, di scrittore, di oratore, tutto ma non quella di prete. Sotto la veste del sacerdote sentivo pulsare il cuore dell'uomo politico, del soldato, e talora mi sconvolgeva un insano desiderio di gloria, di fama e di potere. Mi sentivo così infelice che avrei voluto cambiare radicalmente la mia esistenza oppure morire. Dopo qualche tempo di oscurità e di lotta, la luce e il conforto placarono il mio spirito e la mia umile carriera mi apparve d'un tratto come un compito altissimo e sconfinato. Una voce che giungeva dal cielo mi impose di raccogliere le mie forze e di spiccare il volo oltre l'orizzonte che si stendeva dinanzi a me. Il Dio mi affidava una missione e per compierla era necessario avere coraggio, forza, eloquenza, ossia le qualità del soldato, dell'uomo politico e dell'oratore. Tutto questo è indispensabile a un missionario. Decisi dunque di diventare missionario. Da quel momento il mio spirito si trasformò, tutte le facoltà furono libere da ogni catena e quelle catene non lasciarono altra traccia che l'infiammazione che tien dietro a ogni ferita e che solo il tempo può guarire. Mio padre si oppose in tutti i modi alla mia decisione, ma la sua morte ha tolto di mezzo ogni intralcio. Quando i miei affari saranno sistemati, avrò trovato un successore per Morton. Quando avrò sconfitto la resistenza dei sentimenti umani violentemente spezzati e superata la mia debolezza, lotte dalle quali uscirò vincitore poiché l'ho giurato, allora lascerò l'Europa per l'Oriente. La sua voce era enfatica ma calma. Quando ebbe finito di parlare, rivolse lo sguardo al sole che tramontava, sul quale anche i miei occhi erano fissi. Tutti e due volgevamo le spalle al sentiero che conduceva ai prati. Non avevamo udito alcun rumore di passi sull'erba. Distinguevamo appena il gorgoglio dell'acqua nella valle. Così ci scuotemmo quando una voce allegra e squillante come un campanello d'argento esclamò: «Buonasera, signor Rivers. Buonasera, Carlo. Il suo cane è più pronto di lei a riconoscere gli amici. Ero ancora in fondo al prato che già agitava le orecchie e la coda mentre lei mi volge tuttora le spalle». Era vero. E signor Rivers sussultò udendo il suono armonioso di quella voce, come se il rumore del tuono avesse squarciato una nube sulla sua testa. La nuova arrivata aveva finito di parlare, ma egli era ancora immobile, con il capo appoggiato alla porta e lo sguardo rivolto a occidente. Infine, si volse lentamente, come se una visione gli fosse passata accanto. A 3 passi da lui stava una figura bianca, giovanile, dai tratti delicati, china ad accarezzare Carlo. Ella levò il capo e quando gettò indietro il lungo velo bianco mi apparve un volto di una bellezza perfetta. Bellezza perfetta è forse troppo, ma non saprei descrivere altrimenti quei tratti tra i più armoniosi che abbia mai prodotto il clima d'Inghilterra, quel viso dalla carnagione di gigli e di rose tra le più pure che mai siano sbocciate tra le nebbie del nostro paese. Non aveva un solo difetto quella fanciulla ed era dotata di ogni attrattiva. Lineamenti regolari e fini, occhi grandi, scuri e velati, come si vedono nei quadri più famosi. Le lunghe palpebre ornate da folte ciglia incorniciavano i bellissimi occhi, ai quali aggiungeva fascino le sopracciglia ben disegnate. La fronte bianca e liscia denotava una calma interiore e dava risalto all'ovale delle gote e al colorito delle labbra fresche e delicate. Aveva denti bianchissimi e capelli folti. Rimasi stupita di fronte ad una simile bellezza e non potei che ammirarla col cuore. La natura era stata parziale per lei e, dimenticando l'abituale parsimonia, nei doni elargiti a quella sua creatura aveva dimostrato una liberalità di vera madre, non di matrigna. Che cosa pensava St. John di quell'angelo sceso in terra? Mi posi naturalmente questa domanda e ne cercai la risposta sul suo viso. Aveva distolto gli occhi dalla peri e fissava un umile ciuffo di margherite cresciuto presso il cancello. «È una bella sera, ma un po' tardi per essere fuori sola», disse calpestando le nive e corolle dei fiori chiusi. «Oh, torno ora da...» e fece il nome di una città distante 20 miglia. «Mio padre mi ha detto che avevate aperto una nuova scuola e che la nuova maestra era arrivata, così subito dopo il tè mi sono messa il cappello e sono scesa nella valle per vederla. E lei?» chiese facendo segno a me. «Sì, è lei», rispose St. John. «Crede che Morton le piacerà?» mi chiese con una semplicità ingenua e schietta, quasi fanciullesca, che mi piacque. «Spero di sì, ho molte ragioni per crederlo. Ha trovato le scolari attente come sperava?» «Sì». «Le piace la casa?» «Moltissimo». «Non l'ho ammobiliata bene?» «Molto bene, veramente. Non ho fatto una buona scelta assumendo Alice Wood perché l'aiuti?» «Certo, è abile e pronta a imparare. Quella era dunque la signorina Oliver, l'ereditiera ugualmente favorita dalla fortuna e dalla natura. Quale felice combinazione di pianeti aveva presieduto alla sua nascita. Verrò ogni tanto ad aiutarla. Ella aggiunse: mi servirà di distrazione venire a farle visita di quando in quando. Mi piace variare le mie occupazioni. Signor Rivers, mi sono tanto divertita durante il mio soggiorno a... La notte scorsa ho ballato fino alle 2. Il reggimento è di stazione in città e gli ufficiali sono gli uomini più piacevoli del mondo. Come fanno a scomparire i nostri arrotini e i nostri mercanti di coltelli? Mi sembrò che il signor Rivers sporgesse il labbro inferiore e arricciasse quello superiore. È certo che la sua bocca si contrasse e la parte inferiore del suo viso prese un'espressione più cupa del solito quando la sorridente ragazza gli parlò del ballo. Egli sollevò lo sguardo dalle margherite e lo rivolse a lei. Uno sguardo severo, indagatore e significativo. Ella rispose con un secondo sorriso, un sorriso che si addiceva alla sua giovinezza, alle sue gote rosate, alle sue fossette graziose e ai suoi occhi luminosi. Mentre egli rimaneva muto e grave, ella riprese a carezzare Carlo. Povero Carlo, mi vuole tanto bene, disse. Lui non è freddo e distante con gli amici. Se potesse parlare, lui non rimarrebbe muto. Mentre accarezzava la testa del cane, curva su di lui, con la sua grazia innata di fronte al giovane e austero signore, vidi il volto di questi arrossarsi. Scorsi i suoi occhi solenni accendersi di un improvviso fuoco e quindi addolcirsi per un'irresistibile commozione. Così, acceso e agitato, egli appariva di una maschia bellezza quasi pari alle grazie femminili di lei. Il petto gli si sollevò, come se il suo gran cuore, stanco di una dispotica oppressione, anelasse ad espandersi a dispetto della volontà e facesse uno sforzo per conquistarsi l'indipendenza. Ma egli lo dominò come un cavaliere risoluto doma un cavallo ribelle. Non rispose né con una parola né con un movimento alla gentile allusione della ragazza. Mio padre si lamenta che lei non viene mai a trovarci, continuò la signorina Oliver, alzando lo sguardo. Lei è diventato un estraneo a Vale Hall. Mio padre è solo stasera e non si sente molto bene. Vuole tornare con me per fargli una visita? Non mi pare un'ora adatta per disturbare il signor Oliver, rispose St. John. Non è un'ora adatta? Io dico di sì, invece, è proprio l'ora in cui mio padre desidera compagnia. Il lavoro è finito ed egli non ha nessuna occupazione. Su via, signor Rivers, venga con me, perché mai è così malinconico e selvatico? E si affrettò a colmare il silenzio che seguì alla sua domanda, rispondendo ella stessa. Ah, dimenticavo, esclamò scuotendo la bella testa ricciuta e fingendo d'essere in collera con se stessa. Sono così sventata e leggera, la prego di scusarmi. Avevo dimenticato che lei ha le sue buone ragioni per essere infastidito dalle mie chiacchiere. Diana e Mary lo hanno lasciato, Morehouse è chiusa e lei è solo. Mi fa veramente pena. Su, venga a vedere papà. Non stasera, signorina Rosamond, non stasera. St. John parlava come un automa, egli solo sapeva quale sforzo gli costasse rifiutare l'invito. Ebbene, se è così ostinato, me ne vado. Non posso trattenermi, la rugiada comincia a cadere. Buonasera. Gli stese la mano ed egli la toccò appena. Buonasera, ripeté con voce sorda e bassa come una eco. Ella si avviò, ma subito dopo si volse. Sta bene? Chiese. Poteva fargli quella domanda poiché il viso di St. John era più bianco del vestito di lei. Benissimo. Egli rispose e con un inchino attraversò il cancello e se ne andò. Ella prese una via e lui un'altra. Ella si voltò due volte a guardarlo e, leggera come una fata, attraversò i prati. Egli camminava con passo fermo e non si volse mai. Lo spettacolo delle sofferenze e del sacrificio di un altro distolse i miei pensieri dalle meditazioni personali. Diana Rivers aveva definito suo fratello inesorabile come la morte. Non aveva esagerato. Capitolo 32. Continuai il mio lavoro alla scuola del villaggio con tutta l'attività e lo zelo di cui ero capace. Da principio il compito era duro, perché nonostante i miei sforzi non riuscivo a capire la natura delle mie allieve. Ignoranti, zotiche, apatiche, esse mi apparivano del tutto chiuse ad ogni insegnamento. Sulle prime mi parve che neppure una consentisse qualche speranza, ma presto mi accorsi di essermi sbagliata. Vi erano tra loro le stesse differenze che esistono tra le persone educate, e quando cominciammo a conoscerci a vicenda, queste differenze si manifestarono rapidamente. Quando lo stupore che suscitavano in loro il mio linguaggio e le mie maniere cominciò ad attenuarsi, mi accorsi che alcune di quelle tarde e rustiche ragazze avevano invece una certa vivacità di spirito. Molte si mostravano compiacenti ed amabili e scoprii spesso in esse eccellenti attitudini. Un'educazione innata e un rispetto di se stesse che, suscitando la mia ammirazione, mi stimolarono anche a perseverare nella prova. Presto trovarono piacere a far bene il loro lavoro, a tenersi in ordine, a svolgere con regolarità i loro compiti e a comportarsi con decoro. La rapidità dei loro progressi era talora quasi sconcertante, il che fu per me ragione di giusto orgoglio. Del resto mi ero affezionata alle migliori tra le mie scolare ed esse ricambiavano il mio affetto. Avevo tra le mie allieve molte figlie di affittavoli che erano quasi donne. Esse sapevano già leggere, scrivere e cucire. Potei così insegnar loro i primi elementi della grammatica, della geografia, della storia e i ricami più delicati. Alcune rivelavano notevoli doti di carattere, desiderio di apprendere e disposizione a migliorare. Talvolta alla sera andavo a trovarle a casa e trascorsi con loro più di una piacevole serata. I loro genitori, l'affittavole e la moglie, mi colmavano di attenzioni. Era per me un vero piacere accettare la loro umile ospitalità e ripagarli con una considerazione, uno scrupoloso rispetto dei loro sentimenti al quale non erano forse avvezzi e che, mentre li lusingava, riusciva a loro benefico perché, mentre li elevava ai loro stessi occhi, li stimolava a meritarsi la deferenza di cui erano onorati. Ebbi presto la sensazione di essere benvoluta in paese. Ogni volta che uscivo, tutti mi salutavano con molta cordialità ed ero fatta segno ai più amichevoli sorrisi. Vivere tra la generale considerazione, anche se si tratta della considerazione degli umili, è come essere seduti al sole, calmi e sereni. I sentimenti gentili germogliano e fioriscono al calore dei suoi raggi. In quel periodo della mia vita mi sentii più spesso il cuore gonfio di riconoscenza che oppresso dalla malinconia. Eppure, lettore, lettrice, per essere sincera, anche in quella calma, utile esistenza, dopo aver trascorso la giornata nella scuola e la serata a disegnare o a leggere in gradita solitudine, ero perseguitata durante la notte da strani sogni, sogni agitati, eccitati, tormentosi, pieni di fantasie e di ideali, sogni dove in mezzo a scene inconsuete ed avventure rischiose e romantiche mi incontravo con il signor Rochester che appariva sempre nel momento culminante. E allora la sensazione di essere stretta tra le sue braccia, di udire la sua voce, di incontrare il suo sguardo, di sfiorare la sua mano e le sue guance, di amarlo, di essere amata da lui, la speranza di trascorrere la mia vita al suo fianco, si rinnovavano ogni volta con la stessa intensità e con lo stesso calore. Poi mi destavo, mi rammentavo la mia situazione e tremante e afflitta mi sedevo sul mio letto modesto. La notte buia e tranquilla era testimone della mia disperazione e udiva i singhiozzi della passione. Alle 9 del mattino aprivo puntualmente la scuola e, tranquilla e composta, mi preparavo ai doveri quotidiani. Rosamund Oliver mantenne la promessa di venire a trovarmi. Giungeva di solito al mattino a cavallo, seguita da un servo in livrea, e la lasciava il suo pony alla porta ed entrava. È difficile immaginare qualche cosa di più squisito della sua apparizione. Era vestita di rosso con il berretto d'amazzone di velluto nero posato graziosamente sui lunghi ricci che le accarezzavano le guance, cadendole sulle spalle. Così ella entrava nella rustica casa, meravigliando con la sua grazia le umili ragazze del villaggio. Generalmente ella veniva nell'ora in cui il signor Rivers impartiva la sua quotidiana lezione di catechismo e credo che lo sguardo della visitatrice trafiggesse il cuore del giovane pastore. L'istinto sembrava avvertirlo dell'arrivo di lei, anche quando non poteva scorgerla, e quando gli capitava di vederla entrare, le guance gli si arrossavano e le sue fattezze marmoree si alteravano, benché si sforzasse di dominarsi. Sotto quella calma apparente si indovinava un'agitazione molto più intensa di quella che il vibrare di un muscolo o un fuggevole sguardo possono tradire. Naturalmente, ella era conscia del potere che esercitava su di lui ed egli non riusciva a nasconderglielo. Nonostante il suo stoicismo cristiano, quando ella gli rivolgeva la parola, sorridendo gaia, incoraggiante e anche tenera, egli tremava e i suoi occhi si accendevano. E se le labbra restavano mute, lo sguardo pareva che le dicesse: «Ti amo e so che tu hai una preferenza per me. Non è il timore di essere respinto che mi fa tacere. Se ti offrissi il mio cuore, so che lo accetteresti, ma questo cuore è già deposto su un altare sacro. Il fuoco già lo circonda, tra poco il sacrificio sarà consumato». Allora ella faceva il broncio come una bimba delusa, Una nube di malinconia velava la sua radiosa vivacità, ritirava in fretta la mano da quella di lui e si scostava spazientita da quel viso al tempo stesso eroico e doloroso. St. John senza dubbio avrebbe dato il mondo intero per poterla seguire, chiamare, trattenere quando ella si allontanava, ma non le avrebbe sacrificato il bene celeste, né per il dono terreno del suo amore avrebbe rinunciato alla speranza dell'eterno paradiso. Inoltre non poteva costringere la propria molteplice natura, l'incostante, l'immaginoso, il poeta, il sacerdote che erano in lui, nei limiti di una sola passione. Non poteva, o meglio, non voleva rinunciare alla rude vita del missionario per il lusso e la tranquillità di Vale Hall. Queste cose le seppi direttamente da lui, nonostante il suo ritegno nel fare confidenze. La signorina Oliver veniva a trovarmi a casa di frequente ed ebbi così modo di conoscere a fondo il suo carattere. Che era del resto privo di mistero o di finzione, ella era civettuola ma buona, esigente ma non egoista. Era stata trattata con indulgenza fin dalla prima infanzia, ma non era viziata. Era vivace ma di buon carattere, vanitosa, non poteva fare a meno d'esserlo quando ogni volta che si guardava allo specchio vi vedeva un volto tanto bello, ma non affettata. Non conosceva l'orgoglio della ricchezza, era generosa, ingenua, abbastanza intelligente, gaia, allegra e spensierata. In breve, era molto attraente e graziosa anche agli occhi di un freddo osservatore del suo sesso come ero io. Ma non destava un profondo interesse né grande impressione, aveva una mentalità molto diversa, per esempio, da quella delle sorelle di St. John. Io le volevo bene quasi quanto ad Adele, benché si preferisca sempre la bambina che si istruisce alle ragazze che si conoscono già adulte, e l'aveva un debole per me. Diceva che assomigliavo al signor Rivers, benché fossi soltanto carina e lui un angelo in terra, come diceva lei. Sosteneva però che ero buona, intelligente, educata e risoluta come lui e riteneva che fosse un luxus nature fare di me una maestra di villaggio. Era sicura che se avesse conosciuto la mia storia passata ne avrebbe fatto un delizioso romanzo. Una sera, che con la sua infantile e inoffensiva curiosità frugava nella credenza della cucina, scoprì due libri francesi, un volume di Schiller, una grammatica e un dizionario tedeschi. E poi le mie matite e alcuni schizzi, tra i quali il disegno a penna di una bambinetta, una mia allieva, dal viso di cherubino e alcuni paesaggi dal vero, presi nella valle di Morton e nei dintorni. Ne fu sulle prime assai sorpresa e poi piacevolmente eccitata. Avevo fatto io quei disegni? Sapevo il francese e il tedesco? Che meraviglia, che miracolo ero! Disegnavo meglio del suo maestro del collegio di... Non le avrei fatto uno schizzo da mostrare a suo padre? «Con piacere», risposi. «Ero felice di poter avere un modello così perfetto e radioso. Ella vestiva un abito di seta azzurra scura. Le braccia e il collo erano scoperti e aveva come unico ornamento i bei capelli castani che le scendevano sulle spalle in ricci naturali. Presi un cartone e disegnai con cura i contorni del suo volto. Mi ripromettevo il piacere di colorirlo, ma si era fatto tardi e così la pregai di ritornare un altro giorno». Ella parlò di me a suo padre con tale entusiasmo che la sera seguente il signor Oliver in persona venne con lei a trovarmi. Era un signore alto, massiccio, di mezza età, con i capelli grigi, e al suo fianco la graziosa figliola appariva come un fiore primaverile accanto a un torrione ammuffito. Sembrava taciturno e forse era orgoglioso, ma con me fu gentilissimo. L'abbozzo del ritratto di Rosamond gli piacque molto e mi pregò di farne un quadro ben finito. Inoltre mi invitò ad andare la sera dopo a Vale Hall. Vi andai. La casa era grande e bella e attestava della ricchezza del proprietario. Rosamond era scintillante di brio e di animazione. Suo padre fu affabile e quando prese a conversare con me dopo il tè, mi espresse calorosamente la sua ammirazione per quanto avevo fatto per la scuola di Morton. Mi espresse anche il timore che, essendo io, da quel che aveva visto e udito, troppo fine e istruita per l'umile posto che occupavo, presto me ne sarei andata per dedicarmi a compiti più elevati. «Certo», esclamò Rosamond, «è tanto istruita da poter fare l'istitutrice in una grande famiglia, papà». Pensai che mi trovavo bene dove stavo e che, certo, non sarei stata meglio nemmeno presso la più nobile casata del paese. Il signor Oliver parlò del signor Rivers e di tutta la famiglia con molto rispetto. Disse che il nome dei Rivers era tra i più antichi della regione, che i loro antenati erano assai ricchi e tutto Morton una volta apparteneva a loro, e che ora l'ultimo discendente di quella casa avrebbe potuto, volendo, imparentarsi con le più grandi famiglie. E gli pareva doloroso che un giovane come St. John, prestante e intelligente, avesse deciso di diventare missionario, Era come sprecare una vita preziosa. Da quelle parole capì che il signor Oliver non si sarebbe opposto al matrimonio di Rosamond con St. John e considerava la nascita, il nome e la professione del giovane pastore un compenso sufficiente alla mancanza di beni e di fortuna. Si era il 5 novembre, giorno di vacanza. La mia servetta, dopo avermi aiutato a rigovernare la casa, se n'era andata, soddisfatta dei pochi soldi guadagnati. Tutto era in ordine e pulito, il pavimento lavato, la grata lucida e le sedie spolverate. Mi cambiai d'abito, contenta di avere davanti a me un pomeriggio da trascorrere come meglio mi piacesse. La traduzione di alcune poesie dal tedesco occupò un'ora. Poi presi la tavolozza e i pennelli e mi dedicai alla piacevole, perché più facile, occupazione di completare la miniatura di Rosamond Oliver. La testa era già finita, vi era soltanto da dipingere lo sfondo e da ombreggiare la veste. Un tocco di carminio alle labbra, un soffice ricciolo qua e là sulle trecce, una tinta leggera per sfumare d'azzurro le palpebre, e poi avrei finito. Ero così occupata quando qualcuno bussò, la porta si chiuse, si schiuse e vidi entrare St. John Rivers. «Sono venuto a vedere come passa la sua vacanza», disse. «Non immersa in pensieri, spero». «No, bene, dipingendo, non si sentirà sola». Come vede, non ho ancora piena fiducia in lei, benché fin qui si sia comportata molto bene. Le ho portato un libro perché le serva di distrazione alla sera. E pose sulla tavola l'edizione di un'opera in poesia, una di quelle opere sincere, così di frequente offerte al pubblico di allora. L'età d'oro della letteratura moderna. Ahimè, i lettori del nostro tempo sono assai meno favoriti. Ma coraggio, non voglio soffermarmi ad accusare o a lamentarmi. So che la poesia non è morta né il genio perduto. Mammone non ha avuto partita vinta su di essi, imbavagliandoli o distruggendoli, tanto l'una che l'altro. Essi riaffermeranno un giorno la loro esistenza, la loro vitalità, la loro libertà e la loro forza. Angeli potenti vivono salvi in cielo, essi sorridono al trionfo delle anime sordide e soltanto i deboli piangono sulla loro fine. La poesia distrutta? Il genio bandito? No. La mediocrità non rialzi troppo il capo a quest'idea. Non solo vivono, ma regnano e redimono, e senza la loro influenza divina che si irradia ovunque, i mediocri sarebbero condannati all'inferno della loro stessa meschinità. Mentre guardavo avidamente le belle pagine di Marmion, perché di Marmion si trattava, St. John si chinò a guardare la miniatura. La sua alta persona si raddrizzò di scatto, ma non disse nulla. Lo guardai ed egli evitò i miei occhi. Conoscevo i suoi pensieri, avrei potuto leggere facilmente nel suo cuore. In quel momento mi sentivo più calma e ragionevole di lui, quindi temporaneamente in vantaggio, e volli profittare per fargli del bene, se mi era possibile. Con tutta la sua fermezza e il suo dominio, pensai, chiede troppo a se stesso, rinchiude ogni sentimento e ogni dolore senza nulla esprimere e nulla confessare, senza far partecipe alcun altro del proprio tormento. Sono sicura che gli farebbe bene parlare un po' della dolce Rosamond che egli pensa di non dover sposare. Voglio proprio affrontare questo argomento. Cominciai a dire: «Prenda una sedia, signor Rivers». Ma egli rispose, come faceva sempre, che non poteva trattenersi. «Benissimo», risposi mentalmente, «faccia come le pare, ma sono decisa a non lasciarla andare via subito. La solitudine è un male per lei, come lo è per me. Cercherò di scoprire la porta segreta della sua confidenza e di trovare una fessura in quel cuore di marmo ove versare il balsamo di un po' di simpatia». «È somigliante questo ritratto?» «Somigliante? Somigliante a chi? Non l'ho guardato bene». «Lei l'ha guardato, signor Rivers». Egli trasalì, udendomi parlare con franchezza, così insolita, e mi fissò stupito. «Oh, questo non è nulla», mormorai tra me. «Non intendo lasciarmi intimidire dal suo tono autoritario. Sono pronta ad andare molto in là». Ad alta voce continuai: «Lei lo ha osservato da vicino e con molta attenzione, ma non ho nulla in contrario che lo guardi nuovamente», dissi porgendogli la miniatura. «È ben fatta», osservò. «Le tinte sono dolci e chiare, il disegno corretto e grazioso». «Sì, lo so, ma che cosa ne pensa della somiglianza? A chi assomiglia?» Dopo una leggera esitazione, egli rispose: «Alla signorina Oliver, presumo». «Naturalmente. Ed ora, signore? Per ricompensarla di avere così ben indovinato, eseguirò una copia accurata e fedele di questa miniatura, a patto che lei mi prometta di accettarla. Non vorrei sprecare il mio tempo e la mia fatica per un'offerta che non le fosse gradita». Egli continuava a guardare il ritratto. Più lo guardava, più lo teneva stretto, divorandolo con gli occhi. «È somigliante», mormorò. Gli occhi sono belli, il colore, la luce, l'espressione, tutto è perfetto. Questo ritratto sorride. Le farebbe piacere averne uno simile? Oppure il dono lo offenderebbe? Me lo dica. Quando sarà al Madagascar o al Capo o in India, non sarebbe una consolazione per lei avere questo ricordo? Oppure questa vista agiterebbe nel suo animo ricordi e sentimenti dolorosi e snervanti? A questo punto egli alzò furtivamente gli occhi. Mi guardò irresoluto e turbato, poi contemplò di nuovo il ritratto. Che mi faccia piacere di averlo è certo, che ciò sia giudizioso o saggio è un'altra questione. Da quando sapevo che Rosamond gli voleva realmente bene e che suo padre non era contrario al matrimonio, io, più serena di St. John nelle mie opinioni, mi ero messa in testa di favorire la loro unione. Mi sembrava che St. John, venendo in possesso della grande fortuna del signor Oliver, avrebbe potuto fare altrettanto bene quanto andandosene nelle missioni, dove il sole tropicale avrebbe stremato le sue forze e spenta la sua intelligenza. Con questa convinzione risposi: «A mio giudizio sarebbe più saggio che lei si prendesse subito l'originale». Intanto egli si era seduto. Aveva posato il quadro sulla tavola dinanzi a sé e con la fronte appoggiata alle mani. Lo guardava teneramente. Mi resi conto che non era irritato né offeso dalla mia audacia, ebbi anzi la sensazione che l'avergli parlato con franchezza di un argomento che tendeva ad evitare l'avesse sollevato. Le persone dal carattere chiuso spesso hanno bisogno di una franca discussione dei loro sentimenti e dei loro cruci più delle persone espansive. Anche lo stoico, apparentemente più severo, è un essere umano e spesso irrompere con audacia e buona volontà nel mare silenzioso della sua anima significa rendergli un inestimabile servigio. «Ella le vuole bene, ne sono sicura», dissi, stando in piedi dietro alla sua sedia. «Il signor Oliver ha molta considerazione per lei, e poi è una cara ragazza, anche se un po' sventata, ma lei ha giudizio sufficiente per due, dovrebbe sposarla». «Mi vuole bene? Davvero?» «Certo, più che a qualsiasi altra persona al mondo. Parla continuamente di lei, non vi è argomento che le riesca più gradito». «Fa piacere sentire queste cose», disse. «Molto piacere. Continui per un altro quarto d'ora». E così dicendo levò di tasca l'orologio e lo posò sulla tavola per misurare il tempo. «A che pro continuare?» domandai. «Lei sta certo preparando qualche argomento inconfutabile per contraddirmi o una nuova catena per imprigionare il suo cuore?» «Non pensi nulla di così complicato. Si immagini piuttosto che io mi lasci commuovere e finisca col cedere come sto facendo. L'amore umano sorge in me come una chiara fonte e inonda dolcemente il campo che avevo coltivato con tanta cura e con tanta fatica, nel quale avevo sparso la semente delle buone intenzioni e della rinunzia di me stesso. Ed ora è sommerso sotto l'onda deliziosa e i germogli sono intaccati da un veleno eccitante. Mi vedo nella sala di Vale Hall, ai piedi della mia fidanzata Rosamond Oliver. Ella mi parla con la sua voce dolce, mi guarda coi begli occhi che lei ha saputo riprodurre così bene e mi sorride con le sue labbra di corallo. Ella è mia, io sono suo. La vita presente e questo mondo passeggero mi bastano. Oh, non dica nulla, il mio cuore è pieno di estasi, i miei sensi sono di delizie. Lasci che il tempo concessomi trascorra in pace». L'avevo sconvolto. L'orologio continuava a ticchettare. Egli respirava con affanno, io non parlavo. In quel silenzio trascorse il quarto d'ora. St. John riprese l'orologio, posò il ritratto e tornò alla realtà. «Ora ho concesso un breve istante al delirio e all'illusione», disse. «Ho posato il capo sul seno della tentazione, ho volontariamente posto il collo sotto il suo giogo fiorito, ho gustato il suo calice. Il guanciale è bruciante, vi è un serpente nella ghirlanda, il vino è amaro. Le sue promesse sono vane, le sue offerte bugiarde. Lo vedo e lo so». Lo guardai meravigliata. «È strano», egli riprese, «che mentre amo Rosamond così ardentemente, con tutto l'impeto di una prima passione, il cui oggetto è bello, grazioso e affascinante, abbia nello stesso tempo la certezza che ella non sarebbe per me una buona moglie. La donna che mi conviene, che a un anno dalle nozze me ne renderei conto, e che a 12 mesi di ebbrezza succederebbe un'intera esistenza di rimpianti, di questo sono sicuro». «È strano davvero», non potei fare a meno di esclamare. «Mentre qualche cosa in me», riprese, «è sensibile al suo fascino, qualcos'altro invece è urtato dai suoi difetti. Ella non potrebbe capire le mie aspirazioni, né collaborare alle mie imprese. Rosamond che soffre, che si affatica, Rosamond moglie di un missionario? Ah no! Ma non è necessario che lei sia missionario, potrebbe rinunziare a quel progetto. Rinunziare alla mia vocazione, al mio lavoro, alla base che pongo in terra per la mia dimora in cielo. Non rinunzio alla mia speranza di essere annoverato tra coloro che hanno soffocato ogni ambizione nel desiderio glorioso di migliorare l'umanità, di portare la conoscenza nelle tenebre dell'ignoranza, di sostituire la pace alla guerra, la libertà alla schiavitù, la religione alla superstizione, la speranza del cielo al terrore dell'inferno. Tutto ciò mi è più caro del sangue che mi scorre nelle vene. Vivo per questo e a questo scopo sono rivolte tutte le mie aspirazioni. Dopo una lunga pausa domandai: E la signorina Oliver, il suo dolore, la sua delusione non la toccano? Ah, la signorina Oliver è circondata di corteggiatori e adulatori. In meno di un mese la mia immagine sarà cancellata dal suo cuore. Ella mi dimenticherà e probabilmente sposerà qualcuno che la renderà più felice di quanto potrei farla io. Lei parla con freddezza, ma la lotta la fa soffrire, si sta rovinando la salute. No, se sono dimagrito è perché sono in ansia per i miei progetti non ancora definiti, per la partenza che debbo di continuo procrastinare. Stamani ho avuto comunicazione che il mio successore, che aspetto già da tempo, potrà sostituirmi soltanto fra 3 mesi e forse i 3 mesi diventeranno 6. Lei trema e arrossisce ogni volta che la signorina Oliver entra nella scuola. Il suo volto prese di nuovo un'espressione di stupore. Egli non immaginava che una donna osasse parlare in tal modo ad un uomo, ma io ero sul mio terreno e non potevo entrare in comunicazione con gli spiriti eletti, forti e raffinati. Sia maschi che femmine, senza oltrepassare il limite delle confidenze e conquistarmi un posto nel focolare del loro cuore. Lei è un originale, mi disse, e non è certo timida. Ha lo spirito coraggioso quanto penetrante l'occhio, ma posso assicurarla che ha mal interpretato le mie emozioni. Le ha credute più forti di quello che in realtà sono e mi attribuisce un sentimento più profondo di quello che provo. Non mi compiango quando arrossisco o tremo di fronte alla signorina Oliver. Disprezzo soltanto la mia debolezza. È un sentimento ignobile, una febbre della carne, ma posso dirlo in verità, non un'emozione dell'anima. La mia anima è forte come una roccia, salda come uno scoglio, sorgente dalle profondità del mare. Cerchi di conoscermi per quello che sono, un uomo freddo e duro. Sorrisi, incredula. Ha ottenuto con la forza la mia confidenza, continuò. Ora è tutta a sua disposizione. Nel profondo del mio essere, spogliato dell'involucro di carne che copre le deformità umane, sono un uomo freddo, duro, ambizioso. Di tutti i sentimenti, l'affetto per la famiglia è il solo che abbia conservato un ascendente su di me. La ragione e non il sentimento è la mia guida. La mia ambizione è senza limiti e insaziabile il mio desiderio di salire sempre più in alto, di fare più degli altri. Stimo la pazienza, la perseveranza, l'industriosità. Il talento, perché sono queste le qualità che consentono di raggiungere i fini più nobili e che permettono all'uomo di elevarsi. Seguo la sua carriera con interesse perché vedo in lei una donna ordinata, diligente ed energica, non perché la compianga per quello che ha sofferto o per quel che le rimane da soffrire. Oh, lei si descrive come un vero filosofo pagano. No, la differenza tra me e i filosofi pagani sta in questo. Io credo e credo nel Vangelo. Si è sbagliata, signorina. Non sono un pagano, ma un filosofo cristiano della setta di Gesù. Come suo discepolo ho accettato le sue dottrine pure, generose, misericordiose. Le ho fatte mie e voglio predicarle. Educato fin dalla prima infanzia nella religione, ascolti come essa ha sviluppato le mie qualità innate. Da quel piccolo germe di affetto naturale che era in me, ha fatto crescere l'albero gigantesco della filantropia. Possedevo radici selvagge e incolte della rettitudine umana e mi ha fatto capire la giustizia divina. Essa ha trasformato sete di potere e di fama nell'ambizione di predicare la parola del Signore, di conseguire vittorie sotto lo stendardo della croce. Ecco che cosa ha fatto la religione della mia natura, volgendo le mie caratteristiche innate verso il bene, potandole e coltivandole. Ma non ha potuto distruggerla e nulla la distruggerà fino a quando questo essere mortale non passerà nell'immortalità. Dopo aver cessato di parlare, prese il cappello che aveva posato sul tavolo accanto alla mia tavolozza. Guardò ancora il ritratto. È bella, mormorò. Le si addice davvero il nome di Rosa del Mondo. E non vuole averne il ritratto? Cui bonum, no? Egli coprì la miniatura con la carta sottile sulla quale solevo appoggiare il braccio nel dipingere per evitare che il quadro si sciupasse. Non so che cosa scorgesse su quella carta, ma il suo sguardo ne fu attirato. La prese bruscamente, ne osservò il margine, poi mi lanciò uno sguardo strano e incomprensibile, come se volesse imprimersi bene nella mente ogni tratto del mio viso, della mia persona, del mio abito, squadrandomi così da capo a piedi. Le sue labbra si aprirono come se fosse sul punto di parlare, ma tacque. «Che cosa c'è?» domandai. «Nulla», fu la risposta. Vidi che nel rimettere a posto la carta ne strappò un pezzetto al margine e lo nascose rapidamente nel guanto. Poi, con un secco cenno del capo e un «buonasera», sparì. «Bene», esclamai, servendomi di un'espressione del luogo. «Chi lo capisce è bravo». A mia volta, esaminai la carta, ma non vidi nulla all'infuori di alcune linee che avevo tracciato per provare il pennello. Riflettei su quel mistero per un minuto o due, poi, non riuscendo a risolverlo, e persuasa che non avesse alcuna importanza, non ci pensai più.